stasera ritorna Italia-Spagna. Come tutti sapete, ebbi l'onore di commentarla qualche anno fa, dove finì 2-1, gol di Dino Baggio. Dai ragazzi, forza azzurre! Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Oh, meraviglioso Pisacane, cioè, giocatore del Cagliari che imita Pizzul. Pierluigi, grandissimo, a te grandioso. La risposta, dai, so che lo fai presta, anche tu. Presta tiki-taka, il signor Pisacane, ovviamente anche a tutti i convocati, dove lo attendiamo a braccia aperte. Cerchiamolo, per domani, cerchiamolo, Giorgio De Luca, cerchiamo assolutamente Pisacane del Cagliari. Meraviglioso. Beh, questa sera c'è Italia-Spagna, lo sapete. Mi, sì. mi mandano i video mentre fanno i massaggi prima dell'allenamento. Ah sì, non l'avevo visto, non l'avevo visto. Lo scopro in diretta così non, no, mi, dico, no, non mi dicono mai niente. Per WhatsApp, non mi dicono mai niente. Dei messaggi, dei saluti, li saluto tutti e due, sia Borriello che Pisacane, che sono molto amici. È una delle favole. Ma allora convocalo per domani, assolutamente. Convochiamolo. Convocato bene, per domani. Adesso De Luca subito al lavoro De Luca. Sì. Se non lo sapete, c'è Italia-Spagna questa sera, ore 20:45, si gioca a Torino, sì, 8:00:24. Iniziamo adesso la nostra lunga attesa verso l'evento di questa sera. Parlando seriamente per Luigi Pardo, io credo che mai come questa volta il termine decisiva sia perfetto per definire una partita. Io arrivo anche a dirti che conta più di Italia-Spagna di 3 mesi fa, quella dell'europeo. Perché allora, bene o male, avevamo in testa che saremmo anche potuti finire eliminati. Invece questa volta noi ci giochiamo un pezzo importante, fondamentale della qualificazione e insomma non siamo pronti a pensare di star fuori dal mondiale. No, però no, non è più decisiva, dai, adesso esageriamo, insomma. È importante, sono d'accordo con te che quando Ventura dice che non è decisiva in realtà sta cercando semplicemente di proteggere se stesso e la squadra dalla pressione che è comunque enorme. È giusto dare a quest'Italia Spagna, che stasera ci guarderemo davanti al televisore, il giusto significato, che è importante, però quella, insomma, quella in una fase finale dell'europeo era una partita fondamentale, una partita seria. Era dentro, insomma, e fuori, ma anche questo. Anche questo è un mezzo questo, dentro qui, fuori. Qui hai, sì, è un mezzo, un terzo di dentro fuori, un po' perché poi c'è un proseguio del girone che comunque è chiaro, insomma, se perdiamo oggi con la Spagna è un casino, ecco, tanto per essere chiari, arrivare primi del girone, tanto per dirla in francese. Però poi comunque c'è un cammino che prosegue, c'è la possibilità di sorprese, c'è una partita di ritorno, insomma, no, francamente era più importante quella in Francia, però questa è importante, sono d'accordo con te, è chiaro che tutti i tentativi fatti da Ventura di togliere pressione a questo match sono tentativi eroici, ma che non funzionano. Ma destinati a fallire. Te lo faccio sentire Ventura quando dice che Italia-Spagna è importante ma non drammaticamente decisiva. Drammaticamente decisiva. Per la qualificazione è un momento importante, partita importante, anche molto importante, non decisiva perché c'è ancora tanta strada da fare, però molto importante sia a livello di risultato sia a livello di verifica, che è una verifica sul piano dell'approccio, sul piano della voglia, della fame, sotto tanti aspetti, quindi è una partita estremamente stimolante. Andiamo a fare questa verifica. Noi abbiamo ascoltatori svegli e ti leggo questo messaggio che è appena arrivato, il 349-238-6666, sms o whatsapp, fate come volete. Spero che l'Italia di Conte stasera prenda una bella ripassata, così può finalmente nascere l'Italia di Ventura, perché questo è l'altro tema. E siamo ancora alle fotocopie, dopo ne parliamo con Filippo Maria Ricci. La Spagna in 3 mesi è cambiata, non tantissimo ma è cambiata, e l'Italia è ancora lì. Se Chiellini non fosse squalificato, giocherebbe lui. Se Giaccherini avesse fatto qualche minuto in più nel Napoli, stasera giocherebbe Giaccherini e non Bonaventura. Sì, però è vero, ma non, la cosa non mi indigna, diciamo così, nel senso che Ventura innanzitutto ha giocato a tre anche della sua città, anche l'altra squadra, anche recentemente col Torino. Non è un modulo che non conosce, è un modulo che è anche suo. La difesa sappiamo che è la parte ancora più forte, più affidabile di questa squadra, e quindi ci sta che abbia una sorta di diritto, non dico di veto su altri moduli, ma insomma che possa dire la sua. e quindi non mi indigna l'idea che giochiamo a tre, mi sembra una soluzione che ci sta. Quanto agli interpreti, ci sono giocatori che invece con Conte non sono stati convocati, come Bonaventura ad esempio, cioè non sono completamente d'accordo. È chiaro che è una partita che si gioca tre mesi dopo quell'altra, quindi non è che è cambiato il mondo, ma non è una forma di, così diciamo, di subordine, non è un atto di subordinazione a Conte, non è una forma di mancanza di personalità da parte di Ventura a giocare così, è semplicemente che la logica ti porta a giocare così. Sì, poi c'è il tema Maldini. Ieri sera i cinesi hanno fatto sapere che se la sono presa, che ritengono l'intervista di Maldini, di cui abbiamo parlato ampiamente ieri alla Gazzetta dello Sport, una sorta di no alla loro offerta, quindi vanno avanti diversamente. Io, Pier, penso che sia anche comprensibile, cioè se l'interlocutore, in questo caso Maldini, parla anche in maniera un po' sprezzante di chi ti offre un posto nella società, ha detto ho parlato con l'unico che dice qualcosa in inglese, Fassone è una carissima persona ma io voglio parlare con quegli altri, beh, poi non ti puoi aspettare che dall'altra parte la prendano bene. Guarda, io oggi ho letto le reazioni sulla Gazzetta, Donatoni, Panucci, Di Vaio, Del Piero, Antonioni, Cairo. Ecco, Cairo è quello che mi è piaciuto di più, cioè quello che trovo più stimolante, non perché non fossi d'accordo con gli altri, e ci sta chiaramente il piacere che condivido, l'ho detto anche ieri, l'essere intrigati dall'idea che Maldini torni al Milan è bellissima, cioè una storia bellissima, un grande giocatore, una grande società che si ricongiungono. Però è pure vero che Cairo dice essenzialmente che bisogna prima farsi un'esperienza, non si può avere la pretesa, ammesso che le cose siano esattamente così come abbiamo letto all'intervista alla Gazzetta, perché poi ovviamente ci possono essere sfaccettature, ma non puoi avere la pretesa, anche se sei stato una bandiera straordinaria e anche se sei un ragazzo intelligente, nessuno discute l'intelligenza di essere Paolo nato Maldini, imparato anche come, ecco, come di essere nato imparato e di, cioè, Maldini è all'inizio di una seconda vita. Adesso non voglio fare lo psicologo da quattro soldi. Maldini è un personaggio leggendario e nella sua prima vita, che sarà quella da calciatore, e qui è stato scritto di tutto, da De Gregori a Freud, cioè voglio dire, dalla psicologia alla narrativa. È chiaro che la vita di un calciatore, di un grande calciatore, non è una vita facile, perché è una vita che vive una prima fase nella quale sei il numero uno, e Maldini è stato letteralmente un numero uno come ce ne sono pochissimi. Poi arriva un momento in cui quella vita lì finisce e ne comincia un'altra, dove chiaramente quel nome, quella popolarità e quell'intelligenza, perché lo ribadisco, Paolo Maldini è una persona molto intelligente, di grande stile, di grande eleganza. Però deve anche essere intelligente da rimettersi però poi, in gioco. Però poi si ricomincia e ci sono esempi di grandi ex calciatori che hanno avuto una seconda parte della propria carriera, della propria vita eccezionale, penso per esempio a Carmancelotti e altri grandi che hanno fallito. Ma ci sta, questo ci sta, e non è grave, non è che vuol dire voler male a qualcuno. Quindi è chiaro che da un certo punto di vista è più difficile se tu sei stato Del Piero, se sei stato Totti, se sei stato Maldini, se sei stato Zanetti, se sei stato veramente la storia del calcio, la storia di un club. È chiaro che è più difficile, perché hai un'aspettativa legittima enorme, però poi riparti da 0-0, o riparti da 0-0 con un cognome importante, con l'intelligenza. Ma deve anche avere l'umiltà di farlo, però ne parliamo ancora oggi, se volete, 800-24-00-24. Poi c'è anche De Laurentiis che dice che la Juve è inelegante per Higuain, che forse Koulibaly va via l'anno prossimo, ce ne sono tante di cose da dire oggi. Traffico, torniamo subito. Tutti convocati. Qui altro che ciupiti di Popovia. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta. Tutti convocati. Insigne che cambia gioco dalla parte opposta splendidamente per Darmian. Darmian in area di rigore. Darmian dentro, palla deviata, Graziano! Pelle! Ghiaccio per partita! 91-2-0! Mi ricordo che sicuramente abbiamo fatto una partita gagliarda, una partita da squadra che voleva cercare di ottenere il risultato a tutti i costi, cioè più che altro come approccio e come mentalità. Quel giorno abbiamo voluto il risultato a tutti i costi ed è quello che dobbiamo mantenere, ecco, per poter cercare di far risultato anche domani. Conta come ci arrivi, con quale approccio, con quale serenità, ma con quale determinazione e soprattutto con quali conoscenze per poter mettere in difficoltà, perché credo che solo con la corsa non metti in difficoltà la Spagna. La Spagna che mi aspetto domani è una Spagna sicuramente ferita per il ricordo dell'europeo, una Spagna sicuramente agguerrita anche perché ha cominciato un nuovo corso, però questo nuovo corso l'abbiamo cominciato anche noi. Filippo Maria Ricci, ciao! Buon pomeriggio! Una grande richiesta dalla Come Spagna, no, credo da Torino oggi. Filippo, no, dove no, sei? Oggi da Madrid e poi andrò in Albania, però insomma, questa volta, diciamo, sono a Madrid per questa partita. Senti un po', dalla Spagna come la vedete? Decisiva, importante, cos'è questo Italia-Spagna? Beh, quasi decisiva, mi diceva Morata l'altro giorno, insomma, ha ragione, voglio dire, se c'è un vincitore stasera, poi dopo questo vincitore dipenderà da se stesso, no? Se non farà più... diciamo grandi errori, comunque sarà lui, diciamo, un po' a comandare il gruppo e a gestire un po', no, la qualificazione, e per questo poi anche Morata diceva mi aspetto un pareggio, una partita molto tattica con poche occasioni, un pareggio. Vediamo, sì, che poi potrebbe anche essere, Pier, alla fine il risultato che lascia vivi tutti, sì, perché è quasi la partita d'andata di una sfida da 180 minuti, no? Quindi da questo punto di vista è sicuramente qualcosa che assomiglia a un'eliminazione diretta, ma ripeto, come partita d'andata nell'ambito di due sfide, anche se poi comunque il girone è lungo e la possibilità anche statistica che ci possa essere un inciampo, che ci possa essere un pareggio, che ci possa essere un passaggio a vuoto o per ritare per la Spagna c'è, quindi per questo non è a ragione natura. Io l'ho risentita adesso, queste sue dichiarazioni mi sembrano oneste, non mi sembrano false. È una partita importante, molto importante, non è una partita dalla quale dipende vita o morte direttamente. È una partita che pesa. Sai cosa che c'è? Potrà, esatto, molto probabilmente pesare. Quello per me è il discorso, Pier, che diciamo, se finì, per chi perde può diventare pesante. Perché siamo alla terza partita per entrambi, no? Tanto per Lopetegui come per Ventura, la terza partita, a parte che dipende sempre come perdi, no? Però se dovesse arrivare una sconfitta un po' pesante, per esempio se la Spagna perde stasera, dopo va in Albania, che non è una partita facile comunque, in Albania contro, no, la squadra di De Biasi, cioè entrano tanti dubbi, tanti discorsi, bisogna gestire poi la sconfitta. Per cui, chiaro, non è decisivo, però arrivando così presto, con questi due cicli che sono appena cominciati, è chiaro che ti può essere una caduta che ti condiziona il futuro prossimo e, insomma, no? Ti fa vedere con poca serenità il resto del girone. Però, ti ripeto, secondo me anche solo statisticamente un inciampo ci sarà da una parte o dall'altra, quindi non è esattamente equivalente a una partita di 180. Però prova a immaginarti Ventura gestire una sconfitta stasera e credo che lo stesso valga per Lopetegui, ovviamente. Sì, con la differenza, chiaramente noi giochiamo in casa, quindi abbiamo il vantaggio del fattore campo stasera, però abbiamo anche un po' di pressione in più, nel senso che la Spagna potrebbe anche considerare positivo un pareggio, no? Noi certamente un po' meno. Phil, gli spagnoli hanno un po' paura. Oggi vedevo la prima pagina di Marca. Occhio, ci giochiamo già al mondiale. No. C'è paura, c'è rispetto, c'è timore. Perché comunque, voglio dire, è la partita di Parigi non è la finale di Kiev, capito, del 2012, che poteva magari preoccupare noi. Quello era successo 4 anni fa. Questa di Parigi, sono passati 3 mesi, praticamente l'Italia gioca con la stessa squadra, no? Praticamente 9-11 più o meno, adesso vedremo poi stasera, però manca Chiellini, no? Magari il centrocampo un cambio, però la ferita e anche gli spagnoli più o meno sono gli stessi, adesso qualcosina forse loro magari cambiano 3 uomini, però la ferita è aperta, il ricordo è vivissimo, per cui sì che c'è timore e soprattutto c'è timore perché a Parigi c'è stato un grande problema tattico. Infatti in questi giorni, per la Spagna ovviamente, in questi giorni Lopetegui ha insistito tantissimo sulla tattica e tutti i giocatori, io ho avuto modo di parlare con 3 o 4 giocatori, e tutti hanno, diciamo, hanno fatto notare come il nuovo allenatore abbia preso di petto la questione, questa famosa difesa a 3 che alla Spagna era stata, diciamo, fatale dal mondiale brasiliano con Olanda e Cile, che le prime crepe si erano viste con l'Italia di Prandelli a Danzica, e poi adesso c'è stato il crollo finale a Parigi. Ecco, come affrontare questa difesa 3, questo modulo dell'Italia, insomma, hanno i loro pensieri. Sì, difficilmente ci sottovaluteranno. A proposito, mi piace chiedere anche agli amici a casa se vogliono fare il loro pronostico. 800 24 00 24, c'è chi ci chiede se sarà una gara con tanti gol o con un autobus davanti alla porta. Io credo nessuna delle due, però, con due autobus però aspetto anche voi, due autobus davanti alla porta. Due autobus e una macchina in mezzo al campo, non lo so, Phil. Sì, io vedo una partita molto tattica, con pochi gol, mi sembra di poter prevedere, e forse anche con poche occasioni. È un po' come la prima partita del mondiale, no? Dove raramente si vede lo spettacolo. La posta in palio è molto alta, e diciamo che perdere è peggio che non vincere. È ovvio che può sembrare una banalità, però in questo caso secondo me vale di più, perché come diciamo prima le conseguenze di una sconfitta, insomma, sono difficilmente ipotizzabili oggi, per cui vediamo. Poi invece speriamo che io venga smentito, che sia una partita spettacolare, però ho la sensazione che ci stiano pensando parecchio. Sì, intanto diciamo, diamo due numeri. Noi abbiamo una striscia nelle partite ufficiali, qualificazioni mondiali ed europei, che è di 51 partite senza sconfitte. Chi vuole può toccarsi tutto quello che vuole toccarsi, però la Spagna ha 54. Quindi, quindi almeno dal punto di vista della scaramanzia facciamo pari. 0-0 e passiamo alla partita successiva, dai. Esatto, 52-55 e ne riparliamo al ritorno. No, perché poi oppure magari già ne riparliamo domenica in un girone dove il nostro amico De Biasi oggi potrebbe cominciare, esatto, ad accendere il motore. Sono solo 3 giorni, e la trasferta in Albania per me è peggiore che la partita con la Macedonia, per me è più agevole. L'Albania è arrivata quinta, se non vado errato, nel mondiale precedente, le qualificazioni mondiali precedenti, si sono qualificati per l'Europeo, vogliono far bene. E giocano in casa, ci sarà un campo forse, diciamo, non in grandissime condizioni, perché lì giocano stasera anche Kosovo-Croazia sullo stesso campo, per cui vediamo, insomma, io andrò in Albania, sono curioso di vedere quella partita là, e la partita di stasera influirà anche sul secondo test, soprattutto se le cose non dovessero andare granché bene per la Spagna. Ciao Filippo, è stato un piacere. Ciao. Ciao Filippo, ciao, Maria Ricci, ciao. Corrispondente della Gazzetta dello Sport da Madrid. Dino da Taranto scrive: l'Italia stasera deve vincere e convincere per dare seguito al lavoro di Conte e al perfezionamento di Ventura. Io dico che è il contrario, deve non perdere, perché altrimenti per Ventura si aprirebbe un problema, anche perché va in fotocopia rispetto all'Italia di Conte, e va bene e paga soprattutto se fai risultato. E poi ci dissociamo, Pier da Marco, che ha mandato un WhatsApp per dire: per evitare, facciamoci una chiamata e decidiamo che si pareggia. Noi ci dissociamo, si gioca fino in fondo. Ci dissociamo, però adesso è una battuta, ovviamente è una battuta. Guarda, Daniele dice che ci rullano 1-3. Ecco, c'è ottimismo, saluti a Daniele. No, però insomma, secondo me è abbastanza chiaro che il pareggio per motivi diversi potrebbe anche andare bene a tutte e due, perché chiaramente più alla Spagna che a noi, però tutte e due le squadre sono con allenatori nuovi, tutte e due le squadre sono all'inizio di un ciclo, sono a caccia di autostima, l'importanza è enorme, insomma, pareggiare stasera ti mette in una condizione di continuare con delle possibilità senza contraccolpi psicologici. Poi è catalano, è laparistiano dire che insomma meglio pareggiare, no? Che perdere, però, meglio vincere, però che è pareggiare. È chiaro che tutte e due le squadre hanno grandi rischi, cioè il rischio della sconfitta è enorme, e quindi il ragionamento dei nostri ascoltatori ci sta tutto. 800 24 00 24, aspettiamo i vostri pronostici, le vostre considerazioni. Ci sono già Fortunato e Guido, adesso c'è la borsa, li prendiamo subito dopo. tutti convocati. Vado a giocare, ci vediamo dopo. Scegliete la vita, scegliete un lavoro, scegliete una carriera, scegliete la famiglia, scegliete un maxi programma radiofonico, scegliete una frequenza, una giornata, un orario, un conduttore. Scegliete Voice Anatomy. Voice Anatomy, ogni domenica alle 14.30 su Radio 24. Un programma di Pino Insegno. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti convocati. Lo vorrei, me lo auguro, non sono sicuro, perché anche se dovesse andare, come dici tu, in senso positivo o estremamente positivo, ci sarebbe sempre qualche rimasuglio, quindi ormai mi sono abituato, quindi non è più un problema. Il vero problema è che tipo di prestazione faremo, il vero problema con quale rabbia ci arriveremo, con quale umiltà, con quale fame, con quale desiderio di essere protagonisti. Qualche rimasuglio, così Ventura ha definito ieri i nostalgici di Conte, o comunque il continuo confronto, il continuo ritorno all'Italia di Antonio Conte. 800 24 00 24, mi piacerebbe sapere anche cosa ne pensate. Poi ti leggo alcuni messaggi, Pier, perché ti chiedono anche, preparate, di spiegarci che cosa ha vinto l'Italia con la difesa a 3. Però prima rispondiamo a Fortunato, dalla provincia di Belluno. Fortunato? Pronto? Eccoci. Sono qua, buongiorno. Allora, due considerazioni. Uno riguarda chiaramente il nostro nuovo CT, del quale siamo certamente contentissimi, e ci darà anche soddisfazione finalmente un CT che conosce anche il suo ruolo. L'altro riguarda certamente... In che senso, perdonami? Sì, uno che non alza troppo la voce, uno che è moderato anche nelle considerazioni che fa, uno poi che ha dimostrato comunque nella vita di essere anche... Cioè tu dici che non rompe troppo le scatole, ad esempio, i club, come faceva Conte, sì, adesso, senza andare troppo in giro. Anche il modo di porsi anche davanti alla stampa, piuttosto che anche ai tifosi. No? Un'altra considerazione, no, ma riguarda... va tutto bene finché poi arrivano i risultati, finché vince va bene poi... esatto, perché sì. se per caso stasera dovesse andare male, io sono convinto, Pier, che domani apriamo i telefoni e ci dicono ma è troppo mollo, ci voleva uno come Conte, sanguigno, che magari prenda male parole i giornalisti, le squadre, tutto, però vince. Però aspetta, Fortunato, dai, se vuoi chiudere il pensiero. Sì. Un'altra considerazione riguarda Maldini. Onestamente in questi anni non si è fatto neanche vedere né sentire, no? Adesso che gli danno la possibilità di forse di fare qualcosa di utile, ha perso un'occasione, secondo me, una gran bella occasione, tutto là. Sì, penso anch'io che sia un peccato, Pier. No, allora, sul discorso di Ventura è evidente che insomma la simpatia, il garbo, la misura sono tutte doti positive e importanti, però poi alla fine contro i risultati, quindi meglio l'allenatore antipatico, e non sto dicendo che Conte fosse antipatico, in realtà Conte in privato è una persona molto simpatica, ma complessivamente meglio un allenatore un po' più corrosivo, diciamo così, che però vince, piuttosto di uno invece caruccio, simpatico, gentile, che perde. Ci auguriamo di riuscire a coniugare le due cose. Ventura è una persona molto simpatica, speriamo che vinca. Sul discorso della difesa a 3 della domanda di prima, io non sono un fan della difesa a 3, premesso che grazie a Dio, grazie a Dio per il mondo del calcio, non faccio l'allenatore, perché sarei un disastro, e poi che comunque insomma ho delle idee, ma essenzialmente io faccio parte di quel partito di quelli che pensano che siano i giocatori a decidere qual è il tipo di modulo più adatto, cioè che non esiste il modulo migliore a prescindere. Non sono un integralista, secondo me è stato per esempio il grande errore di Zeman l'idea che comunque il 4-3-3 sempre comunque fosse il modulo, il metodo migliore. Non è così, dipende dai giocatori che hai, dipende dall'avversario, dipende da quanto ti conoscono. Dopo un po', se ti conoscono e hanno capito alcune cose, devi cambiare. Cioè io la vivo così, in maniera molto più molto meno integralista. Detto questo, io preferisco a grandi linee la difesa a 4, cioè io penso che quando si deve giocare a pallone certe grandi partite a 4 complessivamente venga meglio. Sì, certamente, ma ci proverà anche Allegri, di fatto. Detto questo, scusa, l'ultima cosa, la forza della nostra nazionale, abbiamo detto mille volte, sta in questo asse difensivo che si ritrova nella difesa a tre, motivo per il quale Allegri, che è uno che ama giocare a quattro, sicuramente gli piace più giocare a quattro che a tre, però gioca a tre perché evidentemente considera questo il compromesso migliore per il materiale umano che ha a disposizione. E poi c'è un aspetto per quanto riguarda la partita con la Spagna, che è quello che ricordava Filippo Maria Ricci, che è ancora più importante, che la Spagna è in difficoltà quando gioca contro le squadre che giocano. Assolutamente. Quindi, stasera non ho veramente mezzo dubbio sul fatto della difesa 3, assolutamente. Intanto saluto Giampaolo Montali, che ringrazio, grazie Giampaolo. Buongiorno a tutti. Però gli devo chiedere un minuto di pazienza perché Guido da Biella è lì che è in coda da parecchio. Guido. Sì, buon pomeriggio a tutti. Prego. Allora, per quanto riguarda Maldini, credo che sia nell'intervista della Gazzetta, sia un po' nei vostri interventi, manchi un pezzo, cioè, ma Maldini in questi anni, da quando ha smesso di giocare a calcio, qualcuno sa se si è aggiornato, si è come dire, formato per fare un lavoro? Io immagino di sì, cioè non si può dire Maldini è una grande bandiera, un ragazzo intelligente, un ragazzo, però dovrebbe quasi ringraziare che gli offrono l'opportunità. Magari lui è prontissimo per questo ruolo, non lo so, dico io, è una provocazione la mia, però a volte quando ci sono questi racconti trovo che ci siano dei, come dire, dei buchi di sceneggiatura, perché reputo Maldini, se reputate Maldini una persona intelligente come la reputiamo un po' tutti, credo che si sia preparato. Poi sì, però Guido, usciamo un attimo dall'ipocrisia, cioè, quel ruolo viene offerto a Maldini non per il curriculum che può presentare, forse per le potenzialità che si può pensare che abbia, certamente per quello che rappresenta per il Milan, non per altro. Cioè comunque gli è stato offerto un ruolo, io questo ecco. È quello che voglio dire, cioè premesso che poi lui è liberissimo di dire no e di non volersi bruciare, quindi voglio dire ogni scelta è rispettabile, però secondo me manca la controprova. È un po' il discorso che facevo l'altro giorno su Sarri, è una cosa nuova, cioè Maldini che va a fare il dirigente di una squadra di calcio è una cosa nuova, non c'è una casistica, non c'è un passato, non ha un curriculum in quel ruolo di successi o di insuccessi, è una cosa nuova. Ci possono essere degli indizi, certamente è una persona molto intelligente, certamente può essere utile per una luna di miele con i tifosi, perché chiaramente è un grande nome, giustamente molto amato dai tifosi, però da qui a dire che abbiamo la certezza o comunque la forte sensazione che possa essere un successo, non ce l'abbiamo. E quindi gli è stato offerto un lavoro, ripeto, si riparte un po' da 0-0. Guarda, c'è Giampaolo Montali, mi interessa sapere cosa ne pensa. È il re delle ripartenze, perché è uno che ha vinto tutto, uno che ha vinto tutto nella pallavolo. Si è messo a fare il manager, ma credo che abbia studiato prima di diventare il manager di grandi società di calcio. E comunque faceva l'allenatore, che vuol dire in ogni caso gestire uomini, gestire situazioni, non fare il calciatore, l'atleta. Ti è capitato, Giampaolo, quando hai cambiato vita, e l'hai cambiata parecchie volte vita, di ripartire da zero, cioè che ti proponessero un ruolo che non era esattamente quello che ti aspettavi, che fosse un po' poco, e hai deciso di accettarlo della serie... Intanto entro, poi so quello che valgo e mi allargherò una volta che sarò dentro? Ma intanto buongiorno a tutti. Ma io sempre sono stato chiamato a fare cose che non avevo mai fatto prima, perché vabbè, indipendentemente dall'inizio della mia carriera, io facevo medicina e chirurgia, ma che se fa l'allenatore. Poi ho finito di fare l'allenatore, ma che se fare il manager. Da Benetton a Treviso non mi hanno chiesto solo di fare l'allenatore, ma di gestire la società a 360 gradi. Poi mi hanno chiesto di passare al calcio. Poi dal calcio sono passato a fare altre cose, insegnare all'università per esempio, e poi adesso a fare il direttore generale del progetto Ryder Cup. Però tutte le volte io credo che sono stato molto fortunato, io mi ritengo una persona molto fortunata, perché altri hanno visto in me delle qualità e delle caratteristiche probabilmente che io non vedevo, oppure che il mio curriculum e il mio know-how fosse sufficiente per fare quelle cose. In realtà sono sempre stato io un manager delle mie squadre quando facevo l'allenatore, però ecco, la cosa che invece secondo me è importante è invece l'atteggiamento, cioè io tutte le volte che mi è stato proposto qualche cosa, io sono entrato in punta di piedi, sono entrato con una curiosità, con una voglia di imparare e migliorare. Tutte le volte che mi sono approntato a iniziare una nuova avventura non l'ho mai fatta con l'idea di essere pronto e preparato, avevo anch'io le mie paure perché non sapevo se ero in grado di fare, però questa paura di non riuscire a fare, di non averla mai fatto, mi ha fatto arrivare pronto, quindi mi sono preparato, studiato, sono andato in giro per il mondo a imparare. Tutte le volte che mi ha chiesto un'opportunità di fare una cosa, sono andato a vedere quelli che erano i miei modelli a cui ispirarmi, i migliori in quel settore, e li ho studiati. Cioè, provo a stuzzicarti, non ti stupisce che i cinesi se la siano un po' presa leggendo l'intervista di Paolo alla Gazzetta? Ma guarda, io credo che questa cosa, io conosco molto bene Fassone. Perché? Perché forse in pochi lo sanno, ma quando, prima di andare alla Roma, io e Fassone abbiamo messo in piedi praticamente tutto quello che era il progetto Napoli. Scelto l'allenatore Mazzari, scelto Bigon, lui non sarebbe venuto il primo anno ma sarebbe venuto il secondo perché aveva ancora un anno di contratto la Juventus, quindi insieme abbiamo preparato quel progetto, quel prospetto che era il Napoli Calcio. Dopodiché è successo, io sono andato alla Roma, lui invece è rimasto un altro anno lì, però conosco bene la mentalità di Marco. Marco è un uomo che fa squadra, un uomo squadra, quindi io sono certo che a Maldini gli ha proposto un ruolo dove bisogna assolutamente collaborare e giocare di squadra. Probabilmente, secondo me, non ha spiegato bene, non è riuscito a motivare bene Maldini facendogli capire che quella era una grandissima opportunità per lui. Poi non so, io non conosco bene Maldini, non ho mai avuto la possibilità, la fortuna di conoscerlo, quindi non so lui che tipo di approccio ha avuto su questa cosa. Di certo bisogna rendersi conto che nelle società che sono deputate in prospettiva futura a giocare per vincere, per essere le migliori, ormai non ci può essere più il one man show, ci deve essere una serie di persone, un gruppo di persone che lavorano insieme e che insieme prendono decisioni. Posso chiedere una cosa? Poi aspetta Pier, facciamo così, traffico, perché siamo in ampio ritardo per il traffico, ma era molto interessante. Allora, facciamo il traffico, poi torniamo, più Luigi Pardo, Giampaolo Montani, 800 24 00 24. Tutti convocati. I love this game. Tutti convocati. Dibattito interessante. C'è un amico che scrive: è anche questo il motivo per cui noi laziali contestiamo Lotito, che vuole invece essere un one man show. Poi rassicuro un amico che scrive: Maldini l'avete rovinato voi parlando ieri con Cairo e facendogli fare la considerazione sulla carta bianca solo a chi ha dimostrato di meritarla. No, non siamo così importanti. Non siamo Guarda, così importanti. Su Lotito, io credo che Lotito negli ultimi mesi abbia provato a fare delle cose. Cioè, io credo che per esempio Peruzzi è una scelta che nasce proprio dalla sua consapevolezza, magari tardiva per carità, che ci fosse una figura di garante agli occhi dei tifosi, però credo che sì, ovviamente quello è stato uno dei problemi. No, volevo chiedere a Montali se, visto che lui ha conosciuto tanti grandi giocatori, meglio tanti, ne ha conosciuti un po', non sono tantissimi grandi giocatori, se è più difficile per Maldini. E qual è la difficoltà? Perché più sei stato grande, più sei stato unico, e più è difficile probabilmente capire che ricominci da zero. Magari ricominci con un cognome importante, con tanto affetto, però poi alla fine è un lavoro completamente diverso. Guarda, questo è il grande problema dei grandi giocatori, quelli che sono stati veramente dei fuoriclasse, reinventarsi ruoli diversi, perché è difficile, perché la prima cosa che bisogna fare è togliersi completamente la pelle dal giocatore. Non vale più quello che è stato fatto fino al giorno prima. Probabilmente Maldini in questo momento non ha capito bene se il nuovo gruppo lo voleva solo esclusivamente come una figurina da mettere all'interno della società, che gli desse questa parvenza di milanesità a cui in questo momento i tifosi, il pubblico ambisce, e non ha capito che invece c'era un percorso su di lui in prospettiva futura. Quello che fanno fatica a capire i giocatori, io non so se è vero questa storia, ho letto i giornali come avete letto sicuramente voi, di pretendere degli stipendi adeguati a quelli dei giocatori. Non può essere così. Cioè, quando tu entri con un ruolo nuovo che non hai mai fatto, credo che la cosa più importante è proprio centrare con la giusta umiltà e togliersi completamente quella che era la pelle da giocatore. Poi cominciare una nuova carriera. Chi riesce a fare questo, fa il salto di qualità, allora si può imporre anche in altri ruoli, ma chi invece fa fatica a togliersi questa pelle difficilmente riuscirà a integrarsi. Sì, chi continua a pensarla da giocatore. Noi ci rifiutiamo e lo diciamo, scusa Pier, no. Così rispondiamo a un paio di messaggi che sono arrivati, di pensare che dietro ci possa essere l'ostilità degli ultras che avevano contestato Maldini il giorno del ritiro, e con questo credo interpreto anche il pensiero di Pier. Abbiamo un paio di minuti, Pier, poi c'è il GR. No, beh, Guido Paganza ci scrive: nessun grande calciatore italiano è diventato un grande dirigente, lo salutiamo. Sì, adesso io non so se nessuno, però indubbiamente questo è un tema, cioè si comincia una carriera completamente diversa. A proposito di carriere completamente diverse, la terza, quarta carriera del professor Montali è affascinante. Allora, si è appena tornato da Azeltine. La Ryder Cup in Italia è ancora mediamente popolare, ma sta crescendo. Raccontaci l'emozione più grande di questo, che è forse l'evento sportivo, insomma, siamo a livelli di Olimpiadi, mondiali di calcio, no? qualcosa di quel livello lì. Guarda, è stata una cosa incredibile, perché io l'avevo sempre seguita dalla televisione, ma esserla sul campo ti rendi conto di cos'è veramente una Ryder Cup. Intanto la cosa più importante è il tifo. Sembra di essere dentro uno stadio di calcio con 18 campi, perché ogni buca, alla fine di ogni buco su ogni green c'è una tribuna da minimo 5-6 mila spettatori. Ed è veramente una cosa incredibile. In America, per l'America, è come un Super Bowl che dura 7 giorni. Perché la cosa incredibile e straordinaria è che per la Ryder Cup vengono venduti pacchetti di 50.000 biglietti al giorno e comincia tutto dal martedì, perché i tifosi sono presenti sul campo anche quando la squadra si allena, quando i vari gruppi di giocatori provano il campo, anche qui con scene proprio da stadio di calcio. Veramente una cosa, è stata un'esperienza straordinaria, ma la cosa più bella di tutti è questo, che è la prima volta che sento il pubblico che urla Europa, Europa, Europa, di là urlavano Stati Uniti. Questo fatto di sentire gridare la parola Europa, questa Europa tanto vituperata dal punto di vista politico e sociale, invece nel mondo dello sport c'è ancora un'area nella quale è viva ed è forte. Quindi è un segnale molto importante, secondo me, ed è per questo che credo che la valenza che avrà nei prossimi anni la Ryder Cup, dovremo essere molto bravi sulla comunicazione a passare questo messaggio, perché è la cosa desueta per il mondo dello sport. Cioè, l'Europa unita che gioca contro il resto del mondo, come in questo caso l'America, è una cosa dal punto di vista emozionale straordinaria. Abbiamo il GR, io ringrazio Giampaolo Montali per l'intervento, molto interessante. Grazie Giampaolo. Grazie a voi. C'è un amico che ci ricorda il nome di Boniperti come grande ex calciatore, diventato grande dirigente, ma è Andrea, scrive anche, erano altri tempi. Piera, domani. Ciao. A domani dopo il GR delle 14, 800 24 00 24, non stiamo sparando su Paolo Maldini, poi parliamo anche con qualcuno che conosce insieme a noi la vicenda da dentro. Tutti convocati. Non si fa fatica, ragazzi. Sono Gigi Telesforo e volevo ricordarvi l'appuntamento con la grande musica di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Di Gigi Telesforo. Il sabato e la domenica a partire dalle 19.15. Soundcheck, sempre soltanto su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Convocati. Passiamo a uno screening delle sue caratteristiche psicologiche. Parliamo pure liberamente per conoscerci meglio. Allora, quale crede che sia il suo maggior pregio? La sincerità. E il suo principale difetto? La sincerità. Qual è la sua più grande aspirazione? La sincerità. È un giovanotto sveglio, vedo. E allora mi dica, qual è il reddito annuo della sua famiglia? La sincerità. Ma è andata davvero così, tra Paolo Maldini e Marco Fassone. Saluto subito Ciccio Ordine. Ciao Ciccio, giornale. Eccomi qua. Magari è andata davvero così, meravigliosa. Era preso da Santa Maradona, film. Sì. Opera di Giorgio De Luca, Alvise Falzone, Gianmarco Ferronato che ci seguono da dietro il vetro. Oh Franco, abbiamo tanto da dire sulla vicenda Maldini, però ti chiedo un paio di minuti di pazienza, ascoltiamo insieme qualche amico da casa. 800 24 00 24, Stefano da Fermo. Sì, buongiorno a tutti. Eccoci. Diciamo che un po' Montali mi ha anticipato nel discorso, ma penso che come Pardo e come Montale io la penso allo stesso modo. Credo che Maldini si dovesse affacciare in punta di piedi con umiltà, al di là del campione che è stato. Ci abbiamo un precedente nel Milan, Capello, ottimo giocatore, ma prima di ottenere i risultati che ha ottenuto come dirigente responsabile ha fatto scuola nel Milan, e Berlusconi gli ha dato e gli ha garantito l'opportunità di crescere, di conoscere, di crearsi una documentazione tecnica, perché il campo non è la scrivania, il campo non è... Sì, gli ha permesso di fare la famosa gavetta, che tra l'altro credo Franco abbia fatto in parte anche Leonardo, che è uno degli altri paragoni che è stato fatto in queste ore di giocatore transitato direttamente a ruoli importanti dietro la scrivania, cosa che non è vero non tanto perché Leonardo prima ha fatto anche l'allenatore, quanto perché prima ancora insomma, aveva vissuto alle spalle di Galliani per un po' di tempo. Sì, sì, no, aveva fatto proprio la scuola. Galliani, proprio nei giorni scorsi, quando si è trattato di salutare Umberto Gandini, partito per Roma, si è detto giustamente molto soddisfatto, perché all'università del Milan sono usciti due neolaureati di grande spessore, uno appunto Leonardo, che poi è arrivato anche al ruolo di numero uno del Paris Saint-Germain, e adesso Umberto Gandini, che è diventato amministratore delegato della Roma. Questo vuol dire che comunque nel calcio, e soprattutto il Milan, ha un esempio clamoroso in casa, il più grande, uno dei più grandi calciatori della sua storia, Gianni Rivera, era vicepresidente quando il Milan era retrocesso in Serie B per lo scandalo scommesse. Io so che tu hai un'idea abbastanza precisa su quello che è accaduto in queste ore, e anche, se vogliamo, sulle responsabilità. Noi ieri abbiamo fatto il gioco della torre tra Maldini e Fassone. Chi butti giù? Ma guarda, io butterei giù con decisione Maldini, perché intanto non ha capito che non ci sarà più un, tra virgolette, azionista padrone come lo era Silvio Berlusconi. Un fondo è di per sé, tra virgolette, anonimo, nel senso che gli investitori consegnano denaro a questo fondo, ma non si occupano assolutamente della gestione, punto primo. Punto secondo, se mi convoca il direttore del Corriere della Sera per offrirmi la carica di capo dello sport, io non posso pretendere di dire al direttore del Corriere della Sera: no, io voglio essere direttore e tu devi diventare eventualmente vice direttore, perché non è così. Nella vita bisogna accettare le gerarchie, soprattutto quando si tratta di un'offerta di lavoro. Insomma, nel suo, certo, lui non ne aveva bisogno e non ne ha bisogno né lui né le sue future generazioni, ma si trattava di metterlo alla prova, perché finora lui alla prova non c'era mai stato. Sì, io l'unica perplessità che ho, l'ho già espressa ieri, Franco, è questa. Maldini certamente perde una grande occasione, forse l'ultima, forse l'unica. Forse c'è un errore nella tempistica, perché se tu vuoi coinvolgere una persona in un ruolo importante come quello che è stato offerto a Paolo Maldini, che non è un ruolo di rappresentanza, magari non fai in modo che sia l'ultimo tassello, magari costruisci, sì, questo... con lui il progetto, magari prima, sì, di scegliere, sì, il DS, sì, ne parli con lui e l'hai già coinvolto. Certo, questo è come dire, questo può essere un'obiezione che considero molto pertinente, però poiché, diciamo, il numero uno è quello che fa le scelte, è evidente che quello ha cambiato rispetto al 5 d'agosto il campo d'azione della bandiera. Io avevo parlato con Fassone il 5 d'agosto e in quella circostanza si parlava di uno che avrebbe dovuto fare la diplomazia, che avrebbe dovuto fare il ruolo di rappresentanza. In questo caso per lui è stato allargato il confine, gli è stata data l'ampia facoltà di decidere sulle vicende tecniche, quindi in sostanza era stata corretta di 180 gradi il ruolo, e quindi questo doveva essere in qualche modo apprezzato. Francesco da Matera, Francesco. Sì. Eccoci. Allora, vorrei fare due domande. Sì. Allora, però devi parlare un po' più forte, Francesco, perché sì, facciamo fatica a sentirti. Dai. Vabbè, vorrei sentire una telecronaca di Pato quando l'Inter vince con la Juve. Sì. E poi vorrei fare una domanda a te. E De Burr resiste sulla panchina dell'Inter. Sì, guarda, sulla telecronaca aspettiamo, quando, ma magari c'è già, non lo so, chi è che ha fatto la telecronaca di Inter-Juve, adesso la cerchiamo. Su De Burr io penso di sì, resiste, ci manca, non è che l'Inter può cambiare tre allenatori nel corso di una stagione sportiva, però io ho qualche perplessità, anche su questi primi due mesi, e anche con tutte le spiegazioni che si possono dare sulle difficoltà di De Burr, di ambientamento, di aver preso una squadra non sua, magari fisicamente non preparatissima, io qualche perplessità la conservo. Giovanni da Napoli. Sì, salve, mi sente? Sì. Sì. No, niente, io volevo fare una considerazione su Ventura, in pratica, per amor del cielo, grande allenatore e tutto quanto, però mi sembra come si sia immedesimato come il Mosè della nazionale, cioè in che senso? nel senso che mi sembra che ha avuto i 10 comandamenti del dio Antonio Conte, che sarebbe la stessa formazione, stesso modulo di gioco, stessi interpreti, diciamo così. Ma questo, Franco, diciamo, no, mi scusi, no, sì, difesa, tutto qua, centrocampo, non c'è, sì, problema, sì, sì, ma, sì. Così. Ma davanti mi sa che insista un po' troppo con Pelé, cioè, con che c'era di meglio, che c'era di meglio di Pelé ed Eder, Franco, sì. Allora, ma intanto mi sembra inevitabile che debba fare così, visto che non ha il tempo per preparare una nuova squadra, una nuova nazionale e soprattutto un nuovo sistema di gioco. Si comporta da persona intelligente perché sfrutta, si inserisce nel solco di Antonio Conte, così come aveva fatto Allegri quando era arrivato a Vinovo subito dopo Antonio Conte. In attacco mi pare che cambi, perché la presenza di Belotti in qualche modo contribuisce a essere un piccolo cambiamento, e i cambiamenti nel calcio vanno fatti un po' per volta. Le rivoluzioni nel calcio, soprattutto quando non hai il tempo per lavorare giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, non danno grandi frutti. Franco, ti faccio sentire Billy Costacurta, proprio pochissimi minuti fa a Sky Sport 24 a proposito di Maldini. Penso ancora, forse sono l'unico, che con Paolo ci sia ancora aperto qualcosa. Lui vorrebbe eventualmente prendere qualche decisione in più, nel senso che anche la condivisione, che può essere una cosa corretta, in un certo senso dopo ricade sempre su Maldini, perché va bene decidere con gli altri, però se tu dai la responsabilità a un'area tecnica devi darla tutta. Non ti sembra un po' anche una richiesta ambiziosa da parte di Paolo Maldini? Lo è. Io avrei probabilmente avuto un pochino meno richieste, perché credo che probabilmente anche il fatto di salire piano piano possa essere un percorso da seguire. Faccio il tifo per Paolo Maldini o Demetrio Albertini, perché li conosco e spero che non si chiudano le porte di questo possibile rapporto. Qui. Questo Costacurta che dice c'è ancora una porta aperta. Ma io onestamente, guarda, credo che la porta sia stata chiusa in maniera decisa con quel comunicato di ieri pomeriggio delle 18, con cui la società che ha firmato il famoso impegno del 5 agosto ha decretato che a occuparsi della catena di comando del Milan dal punto di vista amministrativo e tecnico sarà formata da Mirabelli e da Marco Fassone. Io credo che si sia chiusa definitivamente la strada. Non so se Costacurta ha parlato probabilmente con Paolo Maldini e pensa che ascoltando le parole di Maldini che ci sia ancora dei margini. Io vedo l'uscio sbarrato, non chiuso, sbarrato addirittura. Sì, sì, sì. Ti faccio sentire anche l'altro pezzettino, perché secondo me contiene anche una chiave di lettura magari futura su cosa può succedere, anche se l'abbiamo detto ieri, in realtà da quello che si sa la cosa verrà congelata dopo il no di Maldini almeno per un po' di tempo. Però Costacurta su chi potrebbe essere l'uomo giusto, Maldini a parte, per quel posto. Io credo che Albertini sia un altro potenziale bandiera del Milan che potrebbe tornare al Milan. Ha tutte le credenziali per poter essere lì. È chiaro che se Paolo non si mettesse d'accordo, Demetrio tra l'altro ha un percorso dirigenziale. Certo. Credo che sia veramente una persona intelligente, l'ha dimostrato, ambizioso, con le giuste conoscenze. Ecco. E che poi avrebbe voglia di farlo questo e ruolo. E che avrebbe molta voglia di farlo. Franco. Io tifo disperatamente per Albertini. Tifo disperatamente per lui, perché ne conosco la serietà, ne conosco la conoscenza, ne conosco la fedeltà ai colori del Milan e soprattutto ne conosco l'esperienza maturata negli anni passati in federazione. Credo che non ci sia scelta migliore per fare di lui quello che si dovrà occupare, oltre che del rapporto con i tifosi, con la squadra, anche con UEFA e FIFA. Sì, io aggiungo che Demetrio Albertini non si è mai tirato fuori, questo lo dico per conoscenza diretta, anche il tweet di inizio settembre, quello era una battuta. Io non sono interista che è stato interpretato, era una battuta, o comunque battuta. Preso per considerarlo fuori dalla partita, in realtà era no, battuta. Ecco, faceva parte di un altro momento e comunque di un momento in cui ad Albertini e a tanti altri non è arrivata nemmeno una telefonata e nulla, insomma, di coinvolgimento nel nuovo Milan. Grazie Franco. Saluti. Grazie Franco Ordine. Faccio sentire De Laurentiis. Allora, cominciamo De Laurentiis, è in inglese ma si capisce benissimo, eh. De Laurentiis sulla Juve poco elegante per aver preso Higuain pagando la clausola. Ma Higuain was a great professional player. You know, you cannot oblige people to remain, especially when in the contract there is a price for which automatically will be sold. And that was the case. I was not expecting an Italian club like Juventus was doing that. So that was new. For me was not very elegant. Not very elegant, non molto elegante. Io non capisco perché ancora torni su questo argomento. Tra l'altro, insomma, infatti ci stanno dimostrando che ha fatto un buon affare anche il Napoli. L'altra frase, quella che secondo me deve davvero preoccupare i tifosi del Napoli, De Laurentiis su Koulibaly, l'offerta del Chelsea e il futuro. L'amico Conte, the friend Conte, was saying, he will always say, it's not true, but the offer to be 30, 35, 40, 45, 50. Chelsea offered £50 million. Last moment, 2 days before the closing of the market, I hear 58, something like that. I need the players, so Koulibaly, for this year, we remain here. Next year we will speak about. Ciao, ciao Antonio. Prossimo anno ne parliamo. Ha finito così, l'avete sentito, prima c'era la lista delle offerte del Chelsea fino a 58 milioni. Enrico Fedele, storico procuratore di Cannavaro, nonché profondo conoscitore della pancia dei tifosi del Napoli. Fedele, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Allora, devono essere più sollevati a sapere che il loro presidente ha rimandato a casa un assegno da 58 milioni, oppure quel finale lì, coi bacini ad Antonio Conte, deve un po' preoccuparli? Credo che forse lo recuperiamo, eh? Adesso lo recuperiamo Enrico Fedele. Umberto da Napoli, Umberto. Devi abbassare la radio, Umberto, devi ascoltarci soltanto attraverso il telefono. Lo so proprio. Eccoci. Niente, ragazzi, vi saluto da Napoli, una città che del sud sta piovendo di tutto. Saluto il direttore Fedele. Niente, volevo fare una domanda su Romagnoli, no? Sì. Poi però mi dici anche se sei preoccupato per le parole di De Laurentiis, che ha detto il prossimo anno si vedrà Koulibaly. Ma io di De Laurentiis non è uno che ha una buona opinione. No. No, perché lui è convinto che i napoliani sono dei rissi, invece non lo sono. Saluto il direttore, volevo fare una domanda su Romagnoli. Sì, dai. E su Adriano Galliani. Sì. Io penso che il Romagnoli oggi giocando in nazionale, no? Sì, oggi debutta. Penso che si snatura un poco, perché è un ragazzo che è abituato da... perché lo ha seguito anche nella primavera del Milan, lui è stato sempre un centrale sia a Roma sia a Milan. Oggi Ventura lo fa giocare un po' esterno a sinistra, mi sembra, no? Non è che si natura un ragazzo così facendolo giocare a tre con due centrali che giocano da 20 anni insieme, mettendo Romagnoli. Io penso che si perde un po' per la strada e c'ho paura di questo, perché abbiamo un ragazzo che è in gambizia. Però Umberto deve giocare, manca Chiellini. Io trovo coraggioso che scelga Romagnoli, lo faccia debuttare invece magari di andare sull'osato sicuro. Credo che questo sia un segnale positivo da parte di Ventura. Poi Romagnoli non è abituato a giocare con la difesa 3 e quindi questo può rappresentare certamente un'incognita. Però cerchiamo di avere un po' di fiducia. Enrico Fedele, vediamo se abbiamo recuperato il collegamento. Sì, ci siamo. Eccoci, allora, su Koulibaly e De Laurentiis. C'è un temporale enorme, perciò forse la linea va e viene. Allora, preoccupato o no da quelle paroline? No, te l'ho detto. Preoccupato no, perché poi alla fine voglio ripetere quello che ho detto prima. Se fosse stato come avrei ceduto il Wayne, perché quella somma è una somma eccessiva, e avrei venduto Koulibaly e tenuto il Wayne. Ma questo... il calcio è cambiato, giovani ragazzi. Prima si facevano le trattative e poi si annunziavano. Oggi si annunciano prima. Io non so se questa strategia ha una sua valenza. Credo di no. Che cosa ha voluto dire De Laurentiis? Ha voluto dire: guardate, dico, io ho fatto un grande sacrificio a non vendere questo giocatore. Però è il primo segnale, il secondo segnale. Calegonda rinnova il contratto e riduce la clausola. Che pensa il tifoso napoletano? Che deve pensare? Si dice, ma queste sono le famose clausole, sono vendite annunciate, e con Koulibaly il fatto che non ci sia la clausola non è che ti fa venire il sospetto che c'è stato un patto tra gentiluomini che magari deve essere rispettato. Quindi c'è tutta una serie di situazioni, anche se il progetto del Napoli, secondo il presidente De Laurentiis, è un progetto che non può prevedere certi determinati costi di gestione all'inizio, poi alla fine, quando ha perso il giocatore, il presidente cerca di recuperarlo. Ma è una tattica, è una, sì, tattica. È una tattica, però anche dicendo le cose che ha detto ieri, che abbiamo sentito, tra l'altro a Londra, quindi nel cuore del mercato inglese, poi non si rischia di far passare quel messaggio lì, cioè i napoletani si devono rassegnare, sarà così anche per altri. Come si vuol dire, di spettacolare. Allora, devi sapere, amico mio, che quando io ero a Parma, ormai sono passati 17-18 anni, si cominciò a parlare, si fece una specie di rivoluzione delle piccole, poi dopo si trovò d'accordo, poi si pensò, ma perché non si fa una coppa, una supercoppa, una coppa dei campioni particolare, sì, allargata, poi vediamo un poco di fare la coppa intercontinentale, si fa vicinissima, poi a poca la volta si è andato a fare le coppe a Doha oppure nel Qatar, o nel Qatar, oppure che vuol dire che le cose sono cambiate e cambieranno ancora. Le cose stanno cambiando, ma non è che De Laurentiis adesso è diventato, come dire, l'innovatore. Il calcio non è fatto di innovazioni immediate, pare. E poi mi sa tanti di programmi elettorali e poco di costruttivo, perché poi se vuoi fare il costruttore di una cosa nuova, e allora non ti siedi al tavolo della Lega, non voti da vecchio, insomma ti adoperi, non è che una volta contesti e l'altra sei d'accordo. Io la vedo in questo modo qua. Sì, sarà anche per questo che i napoletani ce l'hanno un po' con De Laurentiis. Abbiamo sentito anche Umberto prima, l'amico. Se mi dai due secondi, per un motivo semplice, perché spesso sono delle promesse non mantenute, ripeto, prima all'epoca Benitez, prima della anche se poi è sempre lì sopra il Napoli. Questo è un merito allora di De Laurentiis. Allora dico io sono un ammiratore di De Laurentiis come gestione, è riuscita una gestione sana, oculata, e il Napoli è sempre nei primi posti. Io sono con alcune comunicazioni elettorali che praticamente giocano forse con un po' di passione dei napoletani. Quando ci si dà una promessa, la si contiene. Allora, comprerò due top player e poi non li compro. Comprerò un giocatore prima di Bilbao e poi non le compra. Programmi... Alla lunga la gente si stufa. Alla lunga la gente dice bene il risultato positivo. Allora dici, guarda che noi dobbiamo fare sempre in Europa. Non ci illudiamo dicendo quest'anno ho speso tanti soldi, vediamo un poco se possiamo competere per lo scudetto. Chiaro? Però questa squadra del Napoli, non so se posso stare un minuto ancora. Facciamo 30 secondi che poi parte il falco, il gabbiano squadra, di Enrico Ruggeri. Il concetto è la squadra dell'anno scorso ha i più grandi parametri delle squadre europee, ma il più forte capocannoniere 36, la seconda difesa d'Italia, quella che ha tenuto più palla, quella che ha avuto quella di quest'anno? Meno rimbalzo, più ti rimbalzo bastava poco se vuoi vincere. Non so se mi sono spiegato. Bastava fare qualcosa magari a gennaio, oppure non so, tagliare le gambe a quelli della Juve, che poi alla fine le hanno vinte tutte loro le partite. C'è anche questo che secondo me andrebbe sottolineato. Il tempo è finito, purtroppo, ma tanto torniamo da Enrico Fedele. Possiamo, vero? Sì. Siamo a disposizione. Grazie Enrico Fedele. Napoletani, non milanesi, perché voi tutti quelli di Milano sono la metà. No, ma noi abbiamo i napoletani, i milanesi, abbiamo i romani. Vabbè, abbiamo, ma i milanesi tutti sono sempre di origine terroristiche. No, non si può, questa cosa non si può dire che adesso scatena la gente da casa. Grazie Enrico Fedele. Ma la parola terrore io sono onorato. Sì. Perché terrore vuol dire uomo dalla terra. Ma assolutamente, siamo tutti un po' terroni dentro, anche io ho origini che vengo. Grazie Enrico. Ciao caro. Grazie Enrico Fedele, ci dobbiamo davvero fermare. Io ringrazio Giorgio De Luca, che è un po' terrone pure lui, che è stato l'autore di questa puntata. Il Vise Falzone non ne parliamo. In redazione Gianmarco Ferronato, non lo so, io sì. Ci sentiamo domani dopo il GR delle 14. Ci vediamo ragazzi, enjoy.